C'è una vecchia strada di New York chiamata Piccola Italia, strada l'italiana. Bella, bella Napoli rivive in quella piccola Italia, l'aria paesana. Ci sono i panni stesi al sole, provoloni, pomarola, scugnizzi quanti se ne vuole, tutto come sta qui. Ma dove sta, ma dove sta, non poco è mare, la barchetta e la quel lampare, piccola Italia, e o sole mio, è solamente due parole, ma chi sembra imbriagate sole, come in Italia. Ma questa via che me di nusa, Santa Lucia, Cuzzi Teresa non c'è. C'è pure lì nappie di grotta e serenate, quante guaglione innamorate, ma son Mary e non Marie. Ma questa via che me di nusa, Santa Lucia, Cuzzi Teresa non c'è. C'è pure lì nappie di grotta e serenate, quante guaglione innamorate, ma son Mary e non Marie. Quante guaglione innamorate, ma son Mary e non Marie. Straordinario Vittorio, sono del 24, non diciamolo. Anzi, è meraviglioso, vero. È meraviglioso, fatto, canta da Dio, ho fatto 78 una anni classe. Allora, il primo maestro è Sciorilli, lo prende nell'orchestra, maestro Sciorilli, poi lui naturalmente lavora con Kramer, Barzinza, Canfora, i grandi, poi fa tournée in tutto il mondo ed ha questo, appunto, è stato uno dei pochi, assieme a Natalino Otto, a portare lo swing e la musica americana. Però loro hanno sofferto molto, perché i capoccioni della Rai vi hanno bocciato, sì, sempre. Non era facile perché avevano un genere che insomma, eh? Sì, di vero, questo hai sofferto, vero Vittorio? Molto, molto. E allora, però il paradosso è che durante il giorno ci trasmettevano i dischi. Però non vi volevano vedere, fuori, via. No, sentire perché non c'era ancora la televisione. Ah, già è vero. Però nelle trasmissioni, Nisba, vabbè, non importa. Adesso noi chiamiamo la figlia, Cristina, vieni giù perché lei sta tremando. Cristina, sai che Vittorio ti assomiglia, questa figlia? Sì. Ai tuoi occhi, bellissima, guarda. Allora, lei è la nostra Cristina, che fa parte del nostro coro, una cantante bravissima. Lui ha un idolo, come tutti noi, lui ha Nat King Cole, che è uno dei grandi, e vuole cantare con la figlia. Sapete che Nat King Cole ha cantato con Natalie Cole questa canzone bellissima che è Unforgettable? No, perché non lo so dire. No, è giusto. Ho detto bene? Sì. Allora, ascoltiamo questa bellissima canzone, Sogniamo, con Vittorio Paltrinieri e Cristina. Grazie per essere stati qui con noi. Prego. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, to me or far. Like a song of love that cling to me, are the thought of you the thing to me, never before, and someone be more. Unforgettable in every way, in every way, and forevermore, and forevermore, that's how you stay. That's how you stay. Well, but my darling, it's incredible that someone so unforgettable think that I am unforgettable. Unforgettable, that's who you are. That's who you are. Unforgettable, too near or far. Like a song of love, they cling to me. How the thought of you, the thing to me, never before, and some of me more. Unforgettable in every day. Forevermore, that's who we stay. That's my darling, it's incredible that someone so unforgettable think that I am unforgettable. Cristina, bravissimo Vittorio, una bella lezione per tanti giovinastri che cantano così così, avete sentito? Insomma non è più un bambino ma ha una voce fresca, stupenda, bravo bravo Vittorio, e ora ricordiamo...